Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. Ad Atene durante lo sciopero generale contro il piano di austerity, la Commissione europea rivede al ribasso i dati italiani nel 2011 PIL allo 0,8%. Napolitano ricorda l'impresa dei mille, le celebrazioni per l'unità dice non sono tempo perso. Altro che primavera, piove su tutta l'Italia, stato di allerta per il Po. Stasera la finale di Coppa Italia-Roma-Inter, nuova puntata di una sfida infinita. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In un giorno di incertezza per le borse europee, ad Atene è il giorno dello sciopero generale, la tensione è altissima. Torniamo a collegarci dunque con Atene e con il nostro Vittorio Darold. Vittorio, che succede? Sì, dunque la situazione è ancora molto tesa, adesso la parte iniziale appunto del corteo è ancora di fronte al Parlamento, la polizia è intervenuta, ha lanciato gas lacrimogeni e la situazione si sta facendo appunto molto complicata. All'inizio, alla coda del corteo ci sono stati scontri anche lì con dei lanci di bombe molotov che hanno poi fatto prendere fuoco delle auto. Cioè, la situazione è veramente complessa. Per il momento comunque la polizia è riuscita a contenere l'assalto al Parlamento che era stato tentato durante la parte appunto iniziale della mattinata, e adesso ci sono appunto continui slogan del tipo ladri, restituiti i soldi rubati, bruciamo il Parlamento, PASOK e Democrazia, che sono il Partito Socialista e il partito ex conservatore, ora l'opposizione, siete la stessa faccia delle politiche neoliberiste. Grazie. Bene, tutto a voi studio. Grazie a Vittorio Darold, naturalmente richiedici la linea qualora la tensione dovesse tornare a farsi alta, e dicevamo intanto incertezza sulle borse, il punto dunque con Simone Spezia. Sì, la giornata continua ad essere piuttosto altalenante, si era aperta in forte calo. Gli indici erano arrivati a cedere circa il 2%, poi sono arrivate le previsioni della Commissione europea sulla crescita e che davano Eurolandia in crescita dello 0,9% quest'anno e lanciavano anche dei messaggi tranquillizzanti o piuttosto tranquillizzanti per quanto riguarda Grecia e Spagna, e le borse erano tornate a crescere, dopodiché nuovi ribassi in questo momento. Milano cede lo 0,42% sul FTSE MIB, il FTSE Share cede lo 0,41% e sono negative un po' tutte le piazze finanziarie europee, a partire da Francoforte che cede lo 0,35%, Londra lo 0,21% e naturalmente Madrid che lascia sul terreno circa 1,5%. Sì, intanto nelle varie diplomazie europee prosegue il dibattito sul piano di salvataggio in Grecia. Sì, su questo fronte c'è da segnalare il fatto che la cancelliera tedesca Angela Merkel oggi è intervenuta al Bundestag ha difeso in maniera piuttosto appassionata gli aiuti che la Germania, così come gli altri paesi europei, sarà costretta a concedere alla Grecia. Dice: bisogna trarre una lezione, è necessario cambiare il patto di stabilità europea. Sul fronte della rapidità degli aiuti, ha detto Merkel, un buon europeo non necessariamente aiuta rapidamente, ma aiuta in modo che la zona dell'euro non venga danneggiata. Da segnalare che sul fatto di cambiare il patto di stabilità europeo concorda anche il commissario agli affari economici e monetari, Olli Rehn. A te. Grazie a Simone Spezia. Ora veniamo alle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Deve quindi guidarci più che mai anche in queste celebrazioni un forte spirito unitario. Esse non possono essere rivolte in polemica con nessuna parte politica, né formare oggetto di polemica pregiudiziale da parte di nessuna parte politica. C'è spazio per tutti i punti di vista e per tutti i contributi. Onoriamo così i patrioti, gli eroi e i caduti dei mille che salparono da Genova in questo giorno 5 di maggio di 150 anni or sono. Viva l'Italia! Queste dunque le parole del Capo dello Stato, e noi torniamo a collegarci con Genova e con il nostro Andrea Ferro. Sì, ancora buongiorno da Genova, dallo scoglio di Quarto alla nave che porta il nome dell'eroe dei due mondi. L'avvio delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia si intrecciano con la figura di Giuseppe Garibaldi e la spedizione dei Mille. E oggi a Genova il Presidente della Repubblica Napolitano ha ripercorso la storia di quell'impresa e le tensioni che la caratterizzarono. Ha detto: l'Unità d'Italia fu perseguita e conseguita attraverso la confluenza di diverse visioni strategiche e tattiche, l'intreccio di componenti moderate e componenti democratiche rivoluzionarie. Quindi il Capo dello Stato ha sottolineato che è giusto ricordare i vizi d'origine, gli alti e bassi di quella costruzione, mettere a fuoco le incompiutezze dell'unificazione italiana e innanzitutto la più grave tra esse che resta, quella del mancato superamento del divario tra nord e sud. Di qui il richiamo alla necessità di recuperare i motivi di fierezza e di orgoglio nazionale. Erano presenti anche il Presidente del Senato Schifani, quello della Camera Fini e il Ministro della Difesa La Russa, che è intervenuto prima di Napolitano. Non c'era invece alcun esponente della Lega Nord dopo le polemiche dei giorni scorsi. E per il momento da Genova è tutto, vi restituisco la linea. Grazie ad Andrea Ferro. E nel nostro sondaggio di oggi vi chiedevamo che ne pensate delle dichiarazioni di Bossi, che ha definito inutili, come sapete, e retoriche le celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, a cui ha fatto riferimento anche poc'anzi il presidente Napolitano. Ebbene, il 72% di voi si è dichiarato d'accordo con la posizione del leader della Lega. Su questo, ai microfoni di Alessandro Milan, questa mattina è intervenuto l'eurodeputato del Carroccio Mario Borghezio. A 150 anni dagli avvenimenti rievochiamo ed esaltiamo i garibaldini e non una parola e dalle autorità e nemmeno un fiore sui vinti del Risorgimento. E qui si sta continuando a 150 anni la stessa negatività che si compie il 25 aprile, quando nessuna autorità ricorda i vinti della Seconda Guerra Mondiale. Siamo alle solite: la storia scritta dei vincitori, i falsi storici, i referendum fasulli come quello del 46. Le dimissioni di ieri di Scajola, spuntano i nomi dei successori. Il giorno dopo le dimissioni di Scajola, nella maggioranza si apre la partita per la sua successione. Secondo indiscrezioni, il presidente del Consiglio Berlusconi sarebbe intenzionato, almeno per qualche tempo, a prendere l'interim del Ministero dello Sviluppo Economico. Questo in attesa di decidere il nome di chi occuperà la poltrona che era di Scajola, poltrona che interesserebbe anche alla Lega. Al momento l'ipotesi più accreditata sembra quella di una promozione del viceministro Romani, esponente del PDL, che sempre secondo indiscrezioni sarebbe gradito anche al ministro dell'economia Tremonti. L'opposizione intanto va all'attacco. Per il segretario del PD Bersani, i fatti che hanno portato alle dimissioni di Scajola nascondono scenari inquietanti. Siamo in presenza di una specie di giostra di Stato, e cioè appalti secretati, pubblici ufficiali corrotti, trasferimento illecito di capitali all'estero, ripulitura con lo scudo fiscale. Credo che a questo punto, mentre la magistratura fa il suo lavoro, anche il governo dovrebbe fare il suo lavoro e venirci a spiegare cosa succede nel sottoscala di questo paese. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ed è arrivata questa mattina la condanna per l'ex governatore del Lazio Storace, Maria Chiara Grandis. Sì, buongiorno, complimenti, questa è la giustizia italiana. E questo è il commento dell'ex governatore del Lazio dopo la lettura della sentenza del Tribunale Monocratico di Roma per il processo Lazio Gate. Francesco Storace è stato condannato a un anno e mezzo di reclusione perché gli è stato contestato il ruolo di istigatore nell'attività di spionaggio ai danni di Alternativa Sociale, il partito guidato da Alessandra Mussolini ai tempi della campagna per le regionali 2005. Dai computer di Lazio Matica si verificarono accessi al sistema informatizzato dell'anagrafe del Comune di Roma, questo per boicottare la lista. Insieme a Storace sono state condannate altre 7 persone, fra cui l'ex portavoce Nicolò Accame, 2 anni di reclusione, ma anche Mirko Maceri, l'ex direttore tecnico della società Laziomatica, l'investigatore privato Pierpaolo Pasqua, l'ex vicepresidente del Consiglio Comunale Vincenzo Piso. Tuttavia per gli imputati la pena è sospesa per il riconoscimento delle attenuanti generiche. Storace e i suoi collaboratori dovranno invece risarcire la Light, che è la società che gestisce il sistema informativo della Regione Lazio. Accame Natale e Pasqua anche alternativa sociale. Mi accusavano di aver inventato tutto e invece avevo ragione, commenta oggi Alessandra Mussolini, che aggiunge: peccato che Storace non farà neppure un giorno di prigione. Da Roma è tutto, linea a voi. Grazie a Maria Chiara Grandis. Intanto è nato il blog silvioscaglia.it. Sentiamo. Il caso Scaglia è uno scandalo e va sottolineato perché non si ripetano più queste cose. Ci sono limiti che vanno salvaguardati per il bene di tutti. Così Pierluigi Celli, attuale direttore generale della LUISS, interviene su quel che definisce il tormento senza senso inflitto a Silvio Scaglia da 67 giorni in carcere a Roma per l'inchiesta sul riciclaggio e false fatturazioni. La sua intervista ha inaugurato il blog silvioscaglia.it, lanciato dai dipendenti di una società creata dal fondatore di Fastweb. Ho sempre pensato che occorre sostenere il lavoro dei magistrati, ma questa vicenda, lo confesso, mi mette in difficoltà, continua Celli, che assunse Scaglia in Omnitel. Il blog, lanciato dalla squadra di Bubblegum, apre con un contatore che indica i giorni, le ore, i minuti e i secondi passati dall'incarcerazione dell'imprenditore. In questo modo i dipendenti di Bubblegum, dichiara la responsabile marketing e contenuti della società, Stefania Valenti, intendono offrire, grazie ad una documentazione aggiornata e completa della vicenda, una spiegazione ai numerosi clienti e collaboratori italiani e soprattutto stranieri che si chiedono la ragione della lunga detenzione. Katia Caramelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è proprio una storia infinita quella che vi raccontiamo ora, perché parliamo di calcio con la finale di Coppa Italia che si gioca stasera all'Olimpico, una finale che è veramente la fotografia del calcio italiano. Dario Ceccarelli. Hai detto benissimo, Pierre, la foto del calcio italiano, perché Roma e Inter sono le due squadre che hanno caratterizzato tutta questa stagione, con queste continue sfide, con questi continui rimandi, con queste continue polemiche che sono il sugo, il pepe del calcio e che quindi piacciono agli sportivi e ai tifosi perché fanno parlare. Pensa che questa è la quinta volta che si affrontano dal 2005 in finale Roma e Inter, e si può dire di tutto, innanzitutto perché l'Inter sta vincendo il campionato, ma la Roma è stata la sua grande avversaria, è indietro di due punti e nel girone di ritorno l'ha risuperata, inseguita come non era mai successo in passato. E poi ci sono così gli altri obiettivi dell'Inter vicina, c'è la possibilità già di vincere lo scudetto la prossima settimana, la Coppa, la Champions, e la Roma è comunque un ostacolo in mezzo, perché la tripletta per l'Inter sarebbe il massimo. Ma perché Mourinho, Dario, si scalda così tanto? Ma lui si scalda di suo perché è fatto così, e poi anche questo è il bello e il brutto di Mourinho. Lui a ogni appuntamento importante scarica tutte le sue bordate per dare più pressione alla squadra, per concentrare meglio i suoi giocatori, e adesso se l'è presa anche con la presidente tessa della Roma, la signora Sensi, che aveva criticato l'Inter, che siccome con la Lazio l'Inter ha vinto facilmente, lei aveva detto: ah, io mi vergognerei di una vittoria così, e Mourinho gliene ha sparate dietro di tutti i colori, non può mancarci di rispetto, e via continuando e via sparando. Mourinho sarà, finché vince, sarà il migliore. Quando non vincerà più, allora tutta questa sua carica polemica forse la si vedrà in un altro modo. Grazie a Dario Ceccarelli, vedremo stasera. E Roma-Lazio non sarà solo allo stadio e in TV, alcuni spettatori la vivranno in maniera molto particolare. Sarà un'anteprima assoluta per l'Italia, la partita in diretta al cinema e in 3D. Niente striscioni quindi, ma occhialini per coloro che sperimenteranno questa sera la trasmissione della finale di Team Cup in 8 sale del circuito The Space, 5 nella zona di Milano, 2 a Roma, 1 a Parma. Come verrà realizzata la proiezione? Il presidente e amministratore delegato di The Space Cinema, Giuseppe Corrado. Le riprese televisive partono da presupposti diversi, dove le telecamere si devono incrociare secondo alcune regole, e a livello di ricezione noi dobbiamo adeguare il nostro sistema attraverso decoder e impiantistica. Diverso è per il film, che già viene precostituito si aggiungeranno peculiarità che sono tipiche dell'offerta televisiva, la possibilità di vedere alla moviola se era fuori gioco o non era fuori gioco, se la palla era entrata o non entrata, e nel contempo verificarle in diretta, io direi nello splendore di 400 metri quadri di schermo. Ma questa finale in 3D è solo l'inizio, quasi una prova generale per un grande evento. Abbiamo acquisito dalla FIFA direttamente i diritti, penso che anche altri circuiti lo faranno, quindi questa opportunità sarà allargata anche alle aree in cui non copriamo il mercato. Speriamo che tutto funzioni, perché per noi è il collaudo per presentare poi i campionati del mondo del Sudafrica alla stessa maniera. Ecco. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato degli scontri ad Atene durante lo sciopero generale contro il piano di austerity. Poi siamo rientrati in Italia invece con il racconto delle parole di Napolitano, che ha ricordato l'impresa dei mille, le celebrazioni per l'unità d'Italia, ha detto non sono tempo perso. Poi abbiamo fatto il punto sulla finale di stasera di Coppa Italia Roma-Inter, nuova puntata di una sfida infinita. E ripartiamo dal maltempo che sta imperversando sull'Italia. In diretta Laura Bettini. Buongiorno, si piove e continuerà a piovere su quasi tutta l'Italia nelle prossime ore. I disagi maggiori per ora si sono registrati però al nord, con rovesci abbondanti e neve oltre i 1700 metri. In Trentino aumenta il pericolo valanghe. Sentiamo Roberto Conti del Collegio Guide Alpine del Trentino al microfono di Matteo Finco. Nelle ultime giorni le precipitazioni sopra i 2400-2500 metri sono state carattere nevoso sull'ordine dai 30 talvolta anche fino a 50 centimetri. Pertanto il tanto complessivo non risulta o risulta scarsamente e debolmente consolidato. E poco fa la tangenziale ed il casello dell'autostrada A22 a Trento Centro sono stati chiusi per una frana che ha interessato proprio la tangenziale. Ed è chiuso da un'ora anche il ponte provvisorio sul Po a Piacenza per 36-48 ore. Secondo l'agenzia per il Po, l'AIPO, il fiume non raggiungerà comunque il livello di guardia. In Liguria adesso si contano i danni per la mareggiata che ieri si è abbattuta sulla riviera di Ponente, mentre al sud è lo scirocco a causare disagi soprattutto nei collegamenti marittimi. Tutto questo accade a causa della latitanza, per così dire, dell'anticiclone delle Azzorre. Il maggiore Massimiliano Morucci del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia dell'Aeronautica Militare. Diciamo che l'anticiclone delle Azzorre in questo periodo normalmente non segue questa direttrice verso nord, infatti in questo momento si trova vicino all'Islanda, che è normalmente un percorso che avviene durante l'inverno, quindi è una situazione più tipicamente invernale che estiva. Ed è tutto, a voi la linea. Grazie a Laura Bettini. E la nube di cenere sprigionatasi dal vulcano islandese in eruzione ha imposto nuove restrizioni oggi negli aeroporti di Scozia e Irlanda del Nord, a rischio 300 voli. E ancora una volta sua la colpa. Il vulcano islandese, dal nome impronunciabile, ha nuovamente eruttato e la nube conseguentemente nata ha bloccato oggi, come ieri, i voli da e per l'aeroporto di Dublino. La nube ha imposto nuove restrizioni anche negli aeroporti di Scozia e Irlanda del Nord. L'autorità per l'aviazione civile britannica ha deciso la chiusura di molti scali a partire dalle 8 di questa mattina. Nel frattempo, l'Unione Europea ha messo a disposizione un kit amministrativo per i consumatori vittime della nuvola di cenere proveniente dall'Islanda, per aiutarli a presentare ricorso alle compagnie aeree o agli operatori turistici, per esercitare i loro diritti garantiti dalla normativa europea. Nel kit è contenuta una lettera standard in tutte le lingue europee, un elenco di indirizzi a cui inviare le lettere e i punti di contatto di tutte le linee aeree e altri consigli pratici. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Domani le attesissime elezioni in Gran Bretagna. Proseguiamo il nostro viaggio nei programmi dei tre candidati. Oggi parliamo di sanità. The shortest NHS waiting times in history. 3 million more operations a year. Le liste di attesa più corte della storia. 3 milioni di operazioni in più all'anno, oltre 44.000 dottori in più e 90.000 infermieri. Farmaci per il cancro gratis e oltre 100 nuovi ospedali. Over 100 new hospitals. Successi di 13 anni di governo laburista che il primo ministro Gordon Brown sbandiera trionfale nelle ultime ore di campagna elettorale prima del fatidico voto di domani. il sistema sanitario britannico di certo non spicca per efficienza e con l'esigenza di tagliare ulteriormente la spesa pubblica per ridurre il deficit è uno degli argomenti chiave su cui i tre candidati si contendono il 10 di Downing Street. Il manifesto di Brown e quello del favorito David Cameron si scontrano sull'assistenza agli anziani, che i conservatori vorrebbero a carico di un'assicurazione volontaria. La novità conservatrice è la gestione del sistema sanitario nazionale da parte di una commissione indipendente, idea fortemente attaccata dai liberal-democratici di Clegg, mentre i sondaggi di Combres rivelano che è proprio sulle promesse dei partiti sulla sanità che gli elettori britannici sarebbero più confusi. Giorgia Scaturro, GR24, Il Sole 24 Ore, Londra. E questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci in regia Pietro Lacorte. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.